24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:32 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Fino alle 9 siamo in diretta con 24 mattino. Subito il sondaggio, oggi parliamo un po' di politica, del celebre fuori onda di Fini. E vi poniamo questa domanda, già votabile su radio24.it o il sole24ore.com: secondo voi il leader, il presidente della Camera, Fini, è fuori dalla linea politica del Popolo della Libertà, come qualche autorevole esponente, sia commentatore che politico, ha sostenuto? Votate, come già state facendo in molti. Bisogna dire che la maggioranza per ora di chi ha votato dice di sì, Fini non è più in linea col partito, il 67% di voi la pensa così. Ma andiamo a capire che cosa ci offrono oggi i giornali. In primo piano. Allora, c'è chi punta sull'Afghanistan, come La Stampa e Repubblica, che hanno lo stesso identico titolo: in Afghanistan fino al 2013. O anche Il Messaggero: Afghanistan, altri 1000 italiani. La decisione di seguire, insomma, il presidente Obama, che ha detto ci vogliono più soldati in Afghanistan. Mentre l'attualità tra la politica e anche il giorno della deposizione del pentito Spatuzza, oggi a Torino, è la scelta di altri giornali. Il Corriere della Sera: sfida in aula sul pentito di mafia. Mentre Libero: Silvio processato in diretta, ci si riferisce alla puntata di ieri di Anno Zero. Spatuzza e Mills: Berlusconi nella tenaglia. Questo è il Fatto Quotidiano. Addirittura L'Unità mette una grande spada, è una ricostruzione in prima pagina, un fotomontaggio, una grande spada che pende su Palazzo Chigi con il titolo Spatuzza. Il Giornale: le comiche Fini e Di Pietro compari, questa è la politica. Il Sole 24 Ore ha un interessante sondaggio Ipsos fatto per il Sole, appunto in prima pagina, sull'Italia 2010, sulle prospettive. Italia 2010: felice in casa, dubbiosa per l'economia. Poi le vedremo, sono tante opinioni degli italiani su cosa vi aspettate per il futuro, per l'immediato futuro nel 2010, sull'economia, su anche la felicità proprio personale. Allora, è il giorno di Spatuzza, come detto. Il Corriere della Sera, oltre a mettere tutti i dettagli, Spatuzza è arrivato ieri mattina alle 12:45 a Torino, proveniente da località non dichiarata. Oggi parlerà a cominciare dalle 9. Ci sono anche le foto, i disegni di com'è il tribunale, tutti quelli che sono gli accreditati, tanti giornalisti anche provenienti dall'estero. Ma soprattutto il Corriere della Sera intervista Marcello Dell'Utri. Virginia Piccolillo lo ascolta. Dell'Utri: sono tutti pazzi, non ho mai incontrato i boss. Un'intera pagina di intervista, dice il senatore condannato in primo grado, questo è il processo di appello proprio ai suoi danni. Andrò a vedere questo teatrino offensivo, tranquillo, è tutto falso. Certo, anche Berlusconi è assolutamente sereno, teme più la moglie che Spatuzza. E poi Dell'Utri dice: ma da più parti è stato ritenuto attendibile? Chiede Virginia Piccolillo. Sì, da più procure, ovvero da chi lo gestisce. Io non riesco a capacitarmi tutta questa giostra mediatica. La cosa angosciante è che puoi solo dire che non è vero, ma lui può inventarsi di tutto. Ma i due boss non sono pentiti, perché dovrebbero confermare i boss Graviano? Di solito i mafiosi non pentiti non rispondono alle domande. La verità è che questi Graviano non sono mai esistiti nella mia vita, dice Dell'Utri. E ancora, molti vengono arrestati grazie ai pentiti. Ma per carità, l'istituto è sacrosanto, ma va toccato con cautela. Il tempo limite di 6 mesi per parlare è disatteso. E ancora, ha sentito Berlusconi? Ci sentiamo tutti i giorni, gli ho detto sono pazzi qui, tutti pazzi, e lui era tranquillo. Sono altri i problemi che lo innervosiscono, come quelli con la moglie. Dunque un Dell'Utri definito molto anche combattivo e sereno allo stesso tempo. Sul Fatto Quotidiano invece, che come detto mette in apertura Spatuzza e Mills, Berlusconi nella tenaglia, Mills è la vicenda, insomma, ieri, per chi ha visto Anno Zero, è stato anche scoppiettante, molto interessante ieri Anno Zero. si parlava appunto del processo Mills. Mafia, su quei soci arrestati Schifani deve rispondere, parla Salvatore Borsellino in un'intervista a Marco Lillo. Salvatore Borsellino è il fratello del magistrato ucciso in Via D'Amelio. Basta silenzi è tutta un'intervista che seguono le inchieste che il Fatto ha portato avanti sul presidente del Senato Schifani. E la frase conclusiva di Salvatore Borsellino è molto dura. Dice: io il 19 luglio 2008, vale a dire una delle ricorrenze della strage di Via D'Amelio, ero lì e quando arrivò Schifani ebbi l'impulso fortissimo di andargli incontro per dirgli di non profanare quel luogo e chiedergli di andare a deporre quella corona di fiori sulla tomba di Mangano. Mi fermai solo perché era arrivata in quel momento mia cognata Agnese, vale a dire la vedova Borsellino, e volevo evitarle un dispiacere. Quel giorno stesso giurai che quella profanazione non sarebbe mai più avvenuta. Il 19 luglio di quest'anno ho organizzato la manifestazione delle agende rosse ed è bastata la notizia per far sì che nessuno si presentasse. Finché io sarò in vita, Schifani non dovrà presentarsi a commemorare mio fratello. No, molta, molto dura la posizione di Salvatore Borsellino. La vicenda giudiziaria viene trattata appunto, anche se in un altro modo, anche da Libero, come detto in prima pagina. Silvio processato in diretta, lo show è cominciato ieri sulla Rai a Danno Zero con le accuse sul caso Mills, continua oggi in tribunale a Torino con la comparsa in aula del pentito Spatuzza. È Mario Secchi che scrive l'editoriale in prima pagina. Mills e Spatuzza, un avvocato d'affari e un pentito di mafia, il tribunale di Anno Zero e l'aula di Torino, ciak si gira, tutti contro Silvio, scena ennesima. 16 anni dopo la discesa in campo di Berlusconi siamo punto a capo, la caccia al cavaliere è sempre aperta. Questa è la posizione di Libero. Vedremo, oggi alle 9 ci sarà la deposizione di Spatuzza. La politica si anima anche per il 48 ore dopo il fuori onda, che è inutile negare, anche se ieri Berlusconi ha detto non c'è competizione tra me e nessun altro, riferendosi anche a Fini. È inutile negare, almeno leggendo i giornali, che si mantiene una situazione di stallo quantomeno. Il Corriere della Sera, i colonnelli e il gelo con l'ex leader. Alemanno e Matteoli lontani, Gasparri è cambiato lui, non io. Cioè si va a vedere gli ex ADN da che parte stanno. Questo lo fanno un po' tutti i giornali. Gianna Fregonara intervista, che ne so, Gasparri, che dice: non sono io che ho cambiato idea, sono 30 anni che penso le stesse cose. E dunque, seguendo il filo del ragionamento di Gasparri, se le strade di Fini e Gasparri si sono divise, l'addebito va attribuito al primo. È lui che è cambiato, dice Gasparri, ma per me non è un problema. Intanto però nel PDL, scrive Gianna Fregonara, appunto si fanno gli elenchi, le mappe, i conti di come si collocano un po' rispetto a Fini gli ex colonnelli, i dirigenti del vecchio partito. Da una Bocchino, Briguglio, Perina, Buongiorno, Granata, Saglia sono con Fini. Ronchi, Urso, Consolo, Viespoli, anche loro sono con il presidente della Camera, ma un po' più al centro. Poi ci sono gli altri che starebbero un po' più a destra, addirittura a destra nel senso dall'altra parte, sono un po' più lontani da Fini e verso Berlusconi, tanto che La Stampa mette proprio tutte le foto a pagina 7, la scala dei finiani, appunto. C'è da una parte Granata, Bocchino, Urso, Viespoli, cioè i fedeli, poi verso il centro ci si sposta verso Alemanno e poi verso destra c'è Berlusconi e si va verso Matteoli, Mantovano, La Russa, Gasparri, in questa scala, insomma, che in qualche modo dividerebbe quelli che sono i finiani doc e quelli che invece si avvicinano più a Berlusconi. Su Repubblica, da Palazzo Chigi spiegano che tra Berlusconi e Fini è tutto fermo, non ci sono stati contatti diretti, non ci sono novità, in realtà sotto traccia qualcosa si starebbe muovendo. Il fuori onda di Fini ha alimentato il sospetto di una complicità tra chi? Tra il cofondatore del PDL e i magistrati. Questo secondo Francesco Bei di Repubblica. Addirittura più esplicito il giornale, che è quello che, insomma, sapete, è più duro negli ultimi tempi con il presidente della Camera. Intanto in un articolo Marcello Veneziani titola, il titolo dell'articolo di Veneziani è così: il traditore Fini ha lasciato orfana la destra del PDL. Dunque i termini sono questi. E poi in prima pagina il giornale mette le comiche Fini e Di Pietro compari. E all'interno, a pagina 3, c'è quello che sarebbe il piano di Fini. Siamo alle comiche, Fini e Di Pietro compari. Ieri lo scriveva il Corriere della Sera, si sono per caso incontrati Fini e Di Pietro, adombrava questa ipotesi di scenario politico. È smentito peraltro anche dallo stesso Di Pietro, anche se il giornale insiste: dai primi flirt di Mani Pulite al corteggiamento sul caso Cosentino, tra il presidente della Camera e Tonino c'è aria di inciucio anti-premier. Tanto che c'è una frase virgolettata del capogruppo dell'Italia dei Valori che dice: lo vogliamo capo dell'opposizione a Fini. Ma insomma, questo è lo scenario politico. La politica, c'è da dire, no, su Fini voglio fare questa citazione che è ripresa dal Corriere. Ieri Ritan Armeni è andata in TV alla Vita in Diretta a commentare gli scandali Marrazzo e Mussolini e ha detto questa frase: se per questo dicono ci sia pure in giro un filmato hard di Gianfranco Fini. Questa sinceramente mi mancava. E poi insomma, una dichiarazione esplosiva davvero questa per l'ex conduttrice di 8 e mezzo. Contattata dice: ma no, non ho visto niente, io mi riferivo solo all'editoriale di Feltri sul giornale in cui attaccava il presidente della Camera. Ecco, era il 12 settembre, Feltri si diceva pronto a scatenare uno scandalo a luci rosse che avrebbe indotto Fini alle dimissioni, si faceva cenno a filmati compromettenti su AN. Ma quindi chiede: ma non c'entra Fini direttamente? No, ho sbagliato. Esistono immagini? Non so niente. Molto tranchant Ritan Armeni, che non lo so se forse si è lasciata sfuggire, forse ha fatto una considerazione che poi si sa, queste cose in diretta una volta che si dicono rimangono molto molto... Certo, ha lasciato tutti un po' sorpresi. Come sulla vicenda politica ce n'è un'altra che è un po' dimenticata per la verità, ma che oggi il Corriere della Sera riporta alla luce, è la vicenda Mastella, o meglio la moglie di Mastella, Sandra Lorardo, che sapete per quella vicenda giudiziaria che riguarda la Campania, che sta andando avanti, presumo, non ha più il diritto di risiedere in Campania stessa, risiede a Roma. Sulla vicenda Mastella si muove Strasburgo, la Lonardo, cioè la moglie, dice: sono perseguitata, mi stanno uccidendo. C'è Clemente Mastella che combatte per lei, parla per lei e dice: l'altra sera ho telefonato al Senato, dove sia io sia mia moglie abbiamo diritto a un'assistenza sanitaria, il medico è venuto e le ha fatto una flebo. L'ha trovata in condizioni fisiche e psicologiche disastrosa, dimagrita, depressa. In ospedale andrà lunedì per gli accertamenti, ma da questo momento la difendo io. Possibile che per 32 anni di carriera politica io sia stato un uomo per bene e adesso una sorta di Provenzano? Io e Sandra siamo descritti come due delinquenti. E poi ancora un Mastella incontenibile: l'hanno esiliata mia moglie come una delinquente, non può entrare nella casa di Ceppaloni, le sto vicino ma lei avrebbe saputo farlo meglio, sarà un Natale tremendo e non ci aspettiamo nulla. I torroncini, sapete che loro distribuiscono in genere torroncini della loro terra, solo per noi e per gli amici veri quest'anno. In primo piano, Italia 2010, felice in casa, dubbiosa per l'economia. E l'apertura del Sole 24 Ore, si tratta di un sondaggio fatto dalla Ipsos per il quotidiano, nelle quali si interrogano gli italiani su quali sono le loro speranze, le loro attese, sia personali sia per l'economia. 2 italiani su 3 pessimisti sull'arrivo prossimo della ripresa. Però per quel che riguarda il futuro personale prevale l'ottimismo, l'85% si dichiara soddisfatto. A pagina 2 trovate tutti i risultati, per esempio, sostanzialmente sì, c'è un timore per esempio sulla questione della ripresa e il 70% delle persone intervistate per esempio teme che il problema più grave, urgente in Italia in questo momento sia l'occupazione e il lavoro. Mentre per quel che riguarda però la felicità, diciamo, personale, il 45% degli intervistati, in prevalenza soprattutto le casalinghe, si dichiara molto felice, il 40% abbastanza felice, e tra i motivi principali garanzia di felicità per il 67% è la famiglia. Dunque c'è fiducia, insomma, nel proprio futuro dal punto di vista personale, anche se preoccupa la congiuntura economica, preoccupa la situazione del paese, per esempio esempio, sulla domanda qual è il giudizio sullo stato dell'economia del paese, il 24% dice molto negativo, il 46% abbastanza negativo, quelli che dicono abbastanza positivo il 25%, quelli che dicono molto positivo sono pochissimi, appena il 2%. Comunque studiatevi tutti questi dati perché sono molto interessanti. Riguardo a proprio le prospettive del domani, il Sole 24 Ore cede alle penne di Alberto Alesina e Roberto Perotti, due importanti economisti, un'analisi sognando gli occhi della tigre. Scrivono Alesina e Perotti: il governo va rassicurando gli italiani con la seguente analisi della situazione economica. Prima della crisi l'Italia cresceva meno della media europea, a sua volta ben inferiore a quella americana, ma il nostro paese ha sofferto meno degli altri per la recessione, in particolare meno dei paesi che si basano su bolle speculative e carte di credito come Stati Uniti, ma Spagna, Irlanda, Gran Bretagna. Il governo fa quello che fanno tutti i governi del mondo: minimizzare i problemi e massimizzare i risultati positivi. L'errore però per Alesina e Perotti è confondere i dati di un trimestre con l'analisi di lungo periodo. È vero che la grande recessione in Italia è stata meno severa che in Irlanda e Spagna, ma se guardiamo agli ultimi 25 anni, il PIL pro capite italiano è aumentato del 40%, mentre quello irlandese è più che triplicato ed è ora ben superiore a quello italiano. E così anche all'interno, dove si dipana l'articolo, anche per quel che riguarda finanza pubblica e sistema bancario italiano, secondo Alesina e Perotti, l'errore è quello di confondere il fatto che l'Italia ha tenuto nel breve periodo col fatto che, però, confrontandosi col lungo periodo, in realtà la situazione è meno positiva rispetto ad altri paesi. Tanto che concludono così i due economisti: invece di inventarsi di un'Italia che mostra il cammino al resto del mondo, il messaggio dovrebbe essere che forse gli italiani non si devono aspettare una crescita elevata data la struttura della loro economia. Trovate molto delle rivelazioni sul caso Cucchi ancora. Sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi pubblica quello che è il rapporto della direzione delle carceri, il DAP, la direzione dell'amministrazione penitenziaria, in cui si parla di responsabilità a tutti i livelli per la morte di Cucchi. Cucchi che, scrive Bianconi, citando il rapporto, ha concluso la sua vita in modo disumano, degradante, mentre era nelle mani dello Stato e della sua burocrazia. Tra l'altro voglio citare che sia l'Unità sia il Fatto oggi intervistano la sorella Ilaria Cucchi. Ma voglio andare per concludere a tre citazioni riguardanti gli stranieri, gli italiani e gli stranieri, perché ce ne sono tre da tre giornali molto interessanti. La prima è una ricerca del German Marshall Fund pubblicata ieri a Roma. La paura moltiplica gli extracomunitari, la differenza tra realtà dei dati e percezione. Quanti sono gli immigrati nei paesi occidentali? Scrive La Stampa. Una quantità enorme, almeno il 24% in Europa, il 35% in America, il 37% in Canada. In realtà questi dati sono falsi. Ma quello che le rispettive popolazioni pensano è proprio questo, cioè la percezione della paura fa addirittura quadruplicare in alcuni casi l'esistenza dei dati. In Italia, per esempio, sono appena il 6,5%. Ma la cosiddetta gente, cioè l'opinione pubblica, ha una percezione talmente enfatizzata del fenomeno che crede che siano il quadruplo. Riguardo gli immigrati, sempre, guardate che scrive Libero, condomini a numero chiuso. Un sindaco ha deciso, sta studiando un'ordinanza, un sindaco veneto di Oppeano, per mettere un tetto ai numero di stranieri che possono stare in un condominio. Lo vuol fare come ordinanza per evitare stabili occupati tutti da stranieri. Questo la trovate su Libero, chiesto addirittura il via libera a Maroni. È una proposta che farà discutere Alessandro Montagnoli, deputato del Carroccio e sindaco di Oppeano. E infine sulla Repubblica tornano a Milano, Franco Vanni lo scrive in un'inchiesta, gli annunci sempre più numerosi del tipo si affitta, no animali, no stranieri. si affitta, astenersi, extracomunitari. Si cede, si cerca barista, no stranieri. Boom di annunci razzisti per Repubblica, affittasi ma non agli stranieri. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio su Fini. È secondo voi fuori la linea del Popolo della Libertà? È fuori dalla linea politica del partito? Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8.30. Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati 24 mattino con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Eccolo là, dai, svegliamolo il segreto che muori dalla voglia di fare il fuori onda. Un giorno manderemo in onda i fuori onda. Se Peter dall'altra parte, Peter il nostro tecnico, accendesse il microfono di colpo. No, meglio che non lo faccia. No, più che altro si sentirebbero degli sbadigli, no, e residui, dai, di sonno ancora, e quindi siamo rimasti praticamente tra le coperte. Non dire così, dai. Caro Alessandro, hai già fatto l'alberello di Natale? No. Lo farai questo weekend, visto che arriva Sant'Ambrogio, la festa dell'Immacolata. Sì, diciamo. Fai anche il presepe? Sì, non proprio. Oppure riempi il tetto e il balcone di 28.000 lampadine? Oppure dal balcone fai scendere babbi natali per i tuoi bambini, renne, slitte, tutte uscite da Las Vegas? Sono un po' stordito. Dai. Certo, questo lo sapevamo da tempi, ancora prima domande di Natale. Allora, torniamo sull'argomento sicurezza in casa. Abbiamo fatto tutto questo preambolo scherzoso, sull'argomento non c'è per niente da scherzare invece. L'argomento sicurezza in casa lo abbiamo già affrontato qualche settimana fa, lo ricorderete, con un ente di certificazione per la sicurezza degli apparecchi elettronici della nostra abitazione, dai ferri da stiro. Oggi invece passiamo alle lucine di Natale, che vengono tirate fuori dalla polvere della soffitta o dei sottoscala e poi messi in questo periodo ovunque per la casa, naturalmente questo soprattutto per chi ama entrare in pieno clima natalizio. Ben vengano gli addobbi, ma occhio alla sicurezza, attenti alle lucine di Natale, perché una su tre può esplodere, darci la scossa. Questo è un allarme che ieri era riportato da tutti i giornali, che arriva dall'Unione Europea sugli addobbi luminosi di pini e presepi, e secondo questo rapporto pubblicato appunto un paio di giorni fa, sono tutti addobbi che mettono a rischio le feste di migliaia di cittadini europei che sono letteralmente ignari che dietro a questa innocua tradizione si nasconda qualche volta un pericolo che può essere anche mortale. Insomma, non speriamo di scongiurare ovviamente questa eventualità, però siccome poi gli addobbi natalizi vengono maneggiati anche dai bambini delle nostre abitazioni, facciamo attenzione a quello che portiamo nelle nostre case. Allora, stamattina ci darà qualche indicazione utile il dottor Tommaso Campanile, responsabile Dipartimento Competitività, Ambiente e Sicurezza della CNA, cioè la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Dottor Campanile, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei. Allora, il problema, da quello che io ho capito da questa indagine della Commissione Europea, che peraltro ha interpellato tutti quanti i paesi dell'Unione, hanno risposto appena in 5, e tra questi non c'era l'Italia naturalmente, però il campione che è emerso è comunque rappresentativo di quelle che sono le abitudini natalizie. Il problema è quello che troviamo in commercio. Fra un po' arriveremo anche che per addobbare l'albero di Natale dovremmo chiamare l'elettricista, quasi come se dovessimo rifare l'impianto elettrico, dottor, di tutta la casa, dottor Campanile? No, speriamo di no, e tra l'altro questo, come dire, non è un comportamento plausibile in una famiglia. Il problema è trovare sul mercato prodotti sicuri. Noi abbiamo una legislazione che da molti decenni prevede la messa sul mercato di prodotti sicuri che hanno un marchio, soprattutto i prodotti elettrici, e tra questi anche quelli che servono per gli addobbi natalizi, che devono avere i marchi che connotano la loro sicurezza, quindi devono rispondere a specifiche caratteristiche di sicurezza. Purtroppo sul mercato troviamo prodotti che generalmente non vengono dal mercato europeo, dai paesi europei, che non hanno queste caratteristiche, o sono prodotti che abusivamente portano il marchio di sicurezza europeo, il famoso marchio CE, o sono prodotti che non lo portano nemmeno, eppure sono presenti sui nostri mercati. Quindi il made in China. Quelli degli altri paesi. Ecco, il made in China, stiamo parlando sempre di quello che sta invadendo il nostro mercato. Dottor Campanile, tanto per dare proprio qualche indicazione pratica ai nostri ascoltatori, lei per esempio quale materiale non farebbe mai entrare a casa sua? Io non farei mai entrare un prodotto che non abbia i marchi di sicurezza, il marchio di sicurezza elettrica e il marchio CE. perché voglio dire, se esistono queste, se su un prodotto c'è questo marchio, significa che quel prodotto è sicuro, a meno che non sia contraffatto. E se c'è questo marchio vuol dire che risponde a tutte le caratteristiche di sicurezza. Ma nella luminaria di Natale, sicuro, per esempio, che magari molto spesso è un filo anche che non è molto lungo, magari ha anche poche decorazioni, dove lo andiamo a trovare questo marchio? No, c'è sulla confezione. Sulla confezione. Sulla confezione. E poi la si può chiedere tranquillamente. Deve essere presente anche sul prodotto attraverso una fascicolazione che deve essere applicata anche sul prodotto, quindi deve essere questo. Il problema è che sul mercato esistono questi prodotti perché purtroppo non ci sono molti controlli, i controlli non sono dei controlli rigidi e severi. Ecco, anche perché soprattutto in entrata di questi prodotti sui territori nazionali di tutta la comunità europea, perché c'è un regolamento comunitario che impone agli stati di controllare nei varchi d'entrata queste merci. Mancando questi controlli, il mercato viene invaso da questi prodotti scadenti, senza le caratteristiche di sicurezza, e quindi molto pericolosi per le famiglie. E certo. Ovviamente non sono solo quelli relativi agli addobbi di Natale, ovviamente in questo caso ci sono questi prodotti, ma sono un po' tutti quelli che si possono trovare di qualità scadente e che comportano rischi. Ecco, il problema però è che chiaramente se entrano, poi come diceva lei, vengono messi in distribuzione, qua abbiamo anche poi una precisa responsabilità di chi li mette in distribuzione. Io posso anche capire che magari il mercatino dell'ambulante voglia in qualche maniera sopravvivere e mette anche in vendita questi prodotti, però magari il negozio un po' più serio forse dovrebbe evitare di farlo. Allora, se noi magari entriamo in un negozio in cui riteniamo, dottor Campanile, di avere un comportamento irreprensibile da parte del commerciante, e magari ci consegna un prodotto che è sprovvisto delle avvertenze, che non ha le istruzioni per l'uso, forse anche quello deve essere un segnale di attenzione. E il costo, per esempio, quanto conta, anche quanto incide nella scelta di questi prodotti per addobbare il nostro albero? Sicuramente il costo è un altro segnale di allarme. È un componente fondamentale. Un prodotto che viene offerto a un costo basso avrà una qualità scadente, ma ritengo che, soprattutto parlando di questi prodotti così di uso assolutamente saltuario, i costi generalmente non sono mai molto alti. Il problema è che c'è qualcuno sicuramente nei circuiti normali della distribuzione, indipendentemente se sia un ambulante o meno, che può approfittare di questi prodotti per offrirlo al pubblico. Qui ci sono due questioni che vanno affrontate: fare un'informazione, come state facendo voi giustamente, un'informazione ai consumatori puntuale, che gli chiarisca questi aspetti, e per un verso, e per l'altro indagare, anche controllare le reti di distribuzione non ufficiali, perché noi sappiamo che anche sul territorio del nostro paese ci sono reti di distribuzione parallele che vendono esclusivamente questi prodotti. Allora, tra l'altro, leggevo ieri in un'altra comunicazione che è stata fatta da un'associazione dei consumatori che, a parte le luminarie di Natale, c'è da prestare grande attenzione anche ai giocattoli che verranno messi in distribuzione in questo periodo, lo sono tutto l'anno, ma per esempio quelli che hanno, come dire, una matrice elettronica devono avere un'attenzione maggiore, perché esistono rischi anche per questi. E anche per questi, dottor Campanile, diamo la stessa indicazione di individuare sul giocattolo il marchio CE, che è sicurezza assoluta. Come facciamo a capire se il marchio è contraffatto? Con la lente d'ingrandimento dobbiamo fare l'acquisto. Peraltro sui giocattoli ci sono sui giocattoli elettrici devono essere presenti anche altri più marchi che connotano la sicurezza di questi prodotti, ma ovviamente un segnale di attenzione è quello che può dare, qui viene giustamente detto, quello dal prezzo. Perché un prodotto che è connotato con un marchio CE, con un marchio di sicurezza, con più marchi di sicurezza, non può costare al di sotto di una soglia ragionevole, insomma, di prezzo sostanzialmente. Va bene, dottor Campanile, allora come diceva giustamente lei, adesso chiaramente le ricette per risolvere tutti questi problemi che hanno delle dimensioni anche geografiche molto estese non possiamo darne, però chiaramente possiamo dare dei suggerimenti di buon senso a chi ci ascolta, quindi attenzione a questi acquisti perché magari troviamo la luminaria molto carina ma se la compriamo dall'ambulante a 2 euro magari rischiamo di far incendiare l'albero, soprattutto spegniamo le luci durante la notte anche se ci piace avere a Natale ovviamente l'illuminazione natalizia che ci scalda un po' tutto l'ambiente, però forse è bene fare un po' di attenzione anche a queste abitudini. Io ringrazio il dottor Campanile della CNA, ridò la linea ad Alessandro Milan. Prima di aver presentato Salva Danaio, lo sai che questa è stata la settimana del controllo di tutti i rapporti sul credito al consumo? Oggi abbiamo l'ultimo della settimana, abbiamo quello di CRIF, Assofin e Prometeia. E i prestiti stanno drasticamente scendendo nel nostro paese, soprattutto qualcuno, e indagheremo su questa tendenza. Ho mentito, non lo sapevo. Bene, alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Sì ai rinforzi italiani in Afghanistan, altri 1000 soldati saranno mandati a Kabul, ma c'è anche una data per la fine della missione, il 2013, queste le decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri. Stamattina è prevista a Torino la deposizione del pentito di mafia Gaspare Spatuzza nel processo d'appello in cui è imputato il senatore Dell'Utri. Spatuzza dovrebbe ripetere in aula quanto detto ai PM, cioè di aver saputo dai boss Graviano che Cosa Nostra tra il 93 e il 94 aveva in Dell'Utri e in Berlusconi i suoi referenti politici. Altro processo invece a Perugia, dove i giudici entrano in camera di consiglio per decidere sull'omicidio di Meredith Kircher. Ieri le dichiarazioni spontanee dei due imputati. Raffaele Sollecito ha ribadito di non avere ucciso, mentre Amanda Knox ha detto di aver paura di avere una maschera di assassina forzata sulla pelle. Infine per il calcio, la Roma batte 2-1 il Basilea e si qualifica per i sedicesimi di Europa League, mentre oggi a Cape Town in Sudafrica ci sarà il sorteggio per i gironi del Mondiale del 2010. E allora alle 8:34 parliamo di politica nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, i sondaggi si prestano un po' ovviamente a semplificazioni nella domanda. La domanda che vogliamo fare è molto chiara, è questa. Il presidente della Camera Fini, secondo voi, è fuori dalla linea politica del Popolo della Libertà? Sentiamo che cosa ha detto ieri Berlusconi, che ha fatto questa dichiarazione. Non c'è nessuna competizione con nessuno, vorrei soltanto approfittare dell'occasione per dire che sono ancora una volta spiaciuto del fatto che i giornali continuano a portare mie, tra virgolette, delle espressioni, delle affermazioni, delle parole che io non mi sono non solo mai sognato di dire, ma non ho mai neppure pensato. Allora, non c'è nessuna competizione. Non so se anche i miei due ospiti si vogliono prestare a questa semplificazione, ma d'altronde sui giornali sono tutti definiti così. Per esempio, saluto l'onorevole Flavia Perina, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi, la grazie. Semplificazione è che lei è una finiana doc e quindi lei sta con Fini sempre comunque, perché poi ci sono quelli che stanno un po' più verso Berlusconi all'interno della ex DN. Così come nella semplificazione saluto l'onorevole Mario Valducci, buongiorno del buongiorno, Popolo della Libertà. Lei è definito un berlusconiano doc dal 94, insomma è vicino al Presidente del Consiglio. Allora Flavia Perina, lei che è anche direttrice del Secolo d'Italia, oggi titola "È colpa dei giornali". Allora, ma questo Fini è nel Popolo della Libertà o è fuori dalla linea politica del Popolo della Libertà? Ma no, noi abbiamo titolato "È colpa dei giornali" perché la dichiarazione di Berlusconi tendeva a smentire il titolo del giornale di ieri, il titolo di prima pagina, che diceva "Berlusconi a Fini non lo voglio neanche più vedere". Il paradosso è che il giornale è di proprietà del fratello di Berlusconi, quindi insomma veramente è una situazione piuttosto paradossale. Comunque sull'idea che Fini sia fuori dal PDL, insomma, mi sembra che non ci sia neanche discussione. Fini è nel PDL perché è stato fatto un congresso per entrare nel PDL, è stato sciolto un partito per entrare nel PDL. Non credo che si possa usare questa semplificazione per definire la posizione di Fini. Come la definiamo? Allora, perché su tanti temi, l'immigrazione, i diritti per gli immigrati, il testamento biologico, i temi bioetici, di certo insomma, le posizioni sono quantomeno così, non di contrasto, ma diverse. Sono esattamente quelle declinate non, da Fini, ma non soltanto, da una vasta area di Alleanza Nazionale al congresso di fondazione del PDL. Furono applaudite, in particolare l'intervento di Fini su queste posizioni fu applaudito addirittura con una specie di standing ovation, dopodiché ci furono l'intervento anche degli attuali maggiorenti del PDL. Io ricordo Verdini che fece un bellissimo intervento affermando che in particolare sulla bioetica era pienamente d'accordo con le posizioni di Gianfranco Fini. Poi non si capisce per quale motivo 8 mesi dopo le stesse cose, messe in pratica, insomma trasformate in idee, iniziative eccetera, diventano uno scandalo per il PDL. Allora soltanto 8 mesi fa non solo avevano piena cittadinanza, ma erano appunto applaudite con standing ovation. Devo dire che sul nostro sito stanno votando in molti, il 70% dice che effettivamente secondo voi il presidente Fini non è nella linea del PDL, è fuori dalla linea del Popolo della Libertà. Ma comunque, prima di sentire l'onorevole Valducci, vorrei sentire un altro contributo, quello che ha detto il ministro Scajola, perché dopo il fuori onda il ministro Scajola, anche lui molto vicino a Berlusconi, ha detto questa frase: se le dichiarazioni di ieri dimostrano qualcosa, queste fuori onda dimostrano una volontà ed un'azione che è diversa dalla considerazione, dalla linea del Popolo della Libertà, e quindi credo che ognuno debba mantenere la propria coerenza fino in fondo. È in base a questa dichiarazione che i giornali hanno titolato, soprattutto Scajola, Fini è fuori dalla linea del partito. Onorevole Valducci, lei che pensa? Beh, io dico due cose. Sicuramente non bisogna prendere per oro colato quello che dicono alcuni mezzi di informazione, seppure si riferiscono, diciamo, alla famiglia Berlusconi, perché esiste un'indipendenza dei giornalisti che non è che possiamo calpestare, né in casa nostra né evidentemente quando l'editore sono altri soggetti. La seconda cosa è che ci sono dei momenti particolari nel quadro politico italiano dove ci sono delle opportunità di intervento che variano, ovvero in questo momento, da quando è caduto il lodo Alfano per una sentenza politica della Corte Costituzionale, si è registrato un assalto delle toghe rosse verso il fortino di Berlusconi, e penso che sia stato così chiaro questo assalto che addirittura il presidente Napolitano è intervenuto per cercare di arginare questo assalto. Allora, certe parole del presidente Fini appaiono su temi così sensibili come quelli giudiziari, chiaramente temi scottanti e che mettono in qualche modo in discussione quella che è la linea politica di Gianfranco Fini, perché vede, si può discutere di bioetica, si può discutere di cittadinanza attiva, si può discutere di politica economica, cioè si può discutere di tutto assolutamente, però quando si presuppone valida alcune chiacchierate di una persona che oggi parlerà, come lei e il vostro giornale sì, hanno titolato, Spatuzza, e a queste parole persone all'interno del nostro schieramento politico danno una certa credibilità, ecco, queste cose non vanno. Insomma, bene. Quel fuori onda con il procuratore Trifuoggi in cui parlava del petito Spatuzza non è piaciuto, secondo lei è un personaggio che ha ammazzato un bambino nell'acido. Dopo 15 anni ha incominciato a dire alcune cose, onestamente pensare che all'interno del nostro movimento politico ci sia qualcuno che pensa che nel 92, 93, 94 Berlusconi era, e ma quindi ancora è, il rappresentante politico di casa nostra, chiaramente dà un certo fastidio. Dà fastidio. C'è da dire, non è, onorevole Perina, non è che Fini abbia detto... Quella conversazione del fuori onda si riferiva proprio alla necessità di verificare con attenzione, con responsabilità, le dichiarazioni di Spatuzza, perché era una bomba atomica che andava verificata fino in fondo. Poi se uno vuole leggere tutto questo come una testimonianza di solidarietà a Spatuzza, per carità, io francamente sì, però oggi lei forse ho la sensazione, non so se i giornali li ha già visti, ma il giornale oggi parla ancora così, un articolo di Marcello Veneziani: il traditore Fini ha lasciato orfana la PDL, e poi siamo alle comiche Fini e Di Pietro compari, cioè non è che si sminuiscono molto i toni. No, no, ma infatti è evidente che c'è un'area del PDL che sta portando avanti, ma non soltanto da oggi, da moltissimo tempo, da quando uscirono i primi titoli sul compagno Fini, il tentativo di emarginare Fini e le idee di cui si fa portatore all'interno del PDL e ogni pretesto viene utilizzato in questa direzione. Vediamo che ne pensano un paio di vediamo che ne pensano un paio di ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 0024, detto che nel nostro sondaggio sempre il 69% dice Fini è fuori dalla linea del partito. Paola da Milano, buongiorno. Buongiorno. No, io ho una perplessità e volevo fare sì. una domanda. Cioè, chi ha votato il PDL? Ha votato un partito con dei programmi, con un programma che guardasse l'interesse generale della popolazione italiana, oppure ha votato un esercito di persone che l'unico scopo che hanno e l'unica linea politica che hanno è quella di fare da guardia agli interessi personali e ai problemi di Berlusconi? Non so, lei immagino che questa domanda abbia una risposta, ma è un po' diversa la domanda che ci poniamo oggi. Secondo lei Fini è all'interno del partito, è all'interno della linea politica oppure no? Ma secondo me se Fini non è all'interno della linea politica del PDL non è su questo tema. Semmai è su altri temi molto più seri e che riguardano il programma che è sempre sbandierato dal PDL. Mi sembra che con tutte le riforme che hanno fatto, e dicono che ne hanno fatte tante, Fini non si sia mai distaccato. Adesso ha fatto un fuori onda che comunque non è tanto lontano da quello che sono i suoi pensieri, in effetti. Poi ovviamente in pubblico l'avrebbe detto in un altro modo, però il concetto è sempre quello. Va bene. E non mi sembra che sia fuori dalla linea politica. Non mi sembra che sia fuori. Grazie Paola. Davide, la provincia di Venezia? Sì, buongiorno Tomila. Sì, secondo me è fuori, ma fortunatamente è fuori, e anche perché lo dichiaro ogni giorno e non credo nemmeno che sia l'unico, però è l'unico che ha il coraggio di manifestare questa cosa. Perché non ha mai dichiarato sono fuori dalla linea del popolo della libertà, altrimenti uscirebbe dal popolo della libertà, credo. No? È comunque abbastanza palese. L'unica roba che a me preme sottolineare è che nessuno mette in dubbio il fatto che Berlusconi sia stato eletto democraticamente dal popolo. Il fatto è che il percorso per arrivare al voto democratico e al risultato del voto elettorale, il percorso non è stato democratico. È lì che è il problema fondamentale. Percorso di che cosa? Il percorso, tutto il suo percorso politico non è quello che lo ha portato a un voto democratico, ma il percorso che ha fatto non è trasparente, lineare e democratico come si vuole far credere. Ma quale percorso, scusi, il suo percorso per il fatto che ha dei processi, questo sta dicendo? Cioè possiamo parlare per ore di queste cose, è evidente, dei primi finanziamenti. Ho capito, ma non lo deve stabilire lei, voglio dire, se ci sono dei processi, cioè la sua opinione è questa, voglio dire, no? Ma è evidente che è una mia opinione, però lasciamo che vengano fuori queste cose e non ci sono problemi. Fini è questo che secondo me sottolinea ogni giorno, il fatto che ci sia una mancanza di trasparenza e che questa mancanza di trasparenza venga confusa con un'immunità. Va bene, la sua posizione è chiarissima, Davide. Io voglio salutare, ci ha raggiunto un ospite, però devo chiedere ancora un attimo di pazienza perché devo dare il traffico. Il senatore Giuseppe Ciarrapico, buongiorno. Buongiorno, senatore, le do. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, sempre il 69% dice Fini, secondo noi, è fuori dal popolo della libertà come linea politica. Senatore Giuseppe Ciarrapico, eccoci qua, buongiorno. Lei ha dichiarato di recente, Fini non lo vedo da chissà quanto tempo, immagino confermi questo, non vi parlate più sostanzialmente? No, no, purtroppo lui di me ha parlato dicendo che non mi avrebbe mai candidato. E io gli ho risposto che mi aveva candidato il presidente Berlusconi, sapevo benissimo che lui non mi avrebbe mai candidato, ma le dirò che stante le cose, stanti i trascorsi e stanto quello che è successo adesso, prima e prima ancora, io sono felice che lui abbia dichiarato che non mi avrebbe mai candidato. Senza Predellino sarebbe a capo di un partito del 3%, Fini non conta niente e non va da nessuna parte, queste sono sue parole? Gliele confermo totalmente, mi viene molto da ridere quando e dichiara che lui è un cofondatore, insomma, stava anche lui sul pezzetto di Predellino, perché non è vero. Gli italiani ormai ricordano tutto, perché i mass media sono così attivi e così presenti che ricordano benissimo che quando Berlusconi fece il discorso del Predellino, che fu combinato in pochi minuti e raccolse una folla immensa e spontanea a Piazza San Babila a Milano, lui disse che la cosa gli sembrava quasi divertente. Siamo alle comiche finali, disse. Bene, quindi siamo alle comiche finali, alla bocciata, una cosa del genere. Sì. Quelle comiche finali gli hanno consentito di mettersi sul seggiolone di Presidente della Camera dei Deputati. Senta, ma voi non, vabbè, non vi parlate, le dice, lo rivendica anche, è contento di non parlarsi, ma secondo lei dove... dove va Fini? O le chiedo, è fuori dalla linea politica del Popolo della Libertà, oppure non vuole per esempio che il Popolo della Libertà si consegni alla Lega, alle posizioni della Lega? Ma questa posizione della Lega gli ha fatto comodo quando, grazie anche alle maggioranze raggiunte con la Lega, lui si è riuscito a sedere sul seggiolone lì di Presidente della Camera dei Deputati. Quindi la Lega è un alleato fedele, che io stimo e apprezzo, del Popolo della Libertà e di Silvio Berlusconi. E mi sorge solo un dubbio: se lui domani andrà anche lui al no B, al no Berlusconi Day, oppure si asterrà, perché non mi meraviglierebbe mai che andasse là, magari trovando una giustificazione di quella che, di cui lui è capace di tutto. Fini. Addirittura, dai. Comunque, senatore. Non, questa, è vero, questa... non è vero che io non ho visto lui. Io l'ho visto, siccome mi fece sapere tramite Zaccheo, il sindaco di Latina, dice, ma Ciarapico che fa? Anzi, Peppino che fa? E quello gli ha risposto, fa quello che ha fatto sempre, insomma. È rigorosamente ortodosso. Magari diciamolo alla strage, sino alla bestialità, sono ortodosso sino alla bestialità, ortodosso alle nostre idee, quelle che lui ha sempre, se ne è servito e poi le ha rinnegate. E Fini è uno che si è iscritto, sarà il primo giorno che venne da me al Secolo d'Italia, mandato da un camerato, e per parlare con un almirante, e devo dirgli che aveva già allora un grande pregio, un sedere di piombo. Almirante non lo potette ricevere immediatamente perché stava scrivendo, era il giorno che scriveva l'articolo di fondo sul Secolo, io allora ero l'amministratore del Secolo d'Italia, facevo l'editore del Secolo d'Italia. E lui aspettò sino a mezzanotte, quando io, Almirante e Tripoli uscimmo dal giornale, allora i giornali si chiudevano tardi, venivano fatti col piombo, linotype, quindi era un lavoro che prendeva molto tempo. E Almirante gli disse, con l'umanità cordiale che aveva Giorgio Almirante, disse, ma tu hai cenato? E lui disse, veramente no. Dice, allora vieni a cena con noi. Lui si accodò a me e Tripodi e andammo tutti assieme a cena, e da quel momento lui è stato bravissimo. Non ha mai più mollato il polpaccio di Giorgio Almirante, facendogli credere che era un camerata fedele. Alla fine, quando Giorgio stava proprio molto male, prima che partisse per Parigi, dove dopo ritornò quasi morente, e Almirante qualche dubbio profondo ce l'aveva. E lei si è sempre pentito a dire, mi spiace averlo presentato ad Almirante, perché poi lei era lì, insomma, era il trait d'union, diciamo, di questo incontro, no? No, il trait d'union, un camerata, mi sembra, un camerata di Belluno. Me lo mandò dicendo che veniva a Roma perché doveva andare a Magistero da Lettere, o da Magistero doveva andare a Lettere, e mi disse se lo potevo materialmente aiutare facendolo, non so, correttore di bozzo o qualcosa del genere. E io gli dissi, non dipende da me, dipende tutto da Giorgio Almirante, glielo dico. E questo camerata che me lo presentava mi disse, guarda, non vedrai uno che è diverso dal nostro tipo. Uno tutto un po' fighetto, come si diceva allora. Infatti venne con la sua cravattina ordinata, bello preciso, non portava ancora i colli quelli alla boyfriend anni 30, quello è venuto dopo, quando è cominciato a frequentare. Vabbè, io mi devo fermare qui, senatore, però dai, che finiva dal Nobby Day, questa è una battuta, no? Lei se lo aspetta davvero che possa fare una cosa del genere? Scusi, quando io per ricordargli un certo passato a cui aveva assistito. Sì. Fece affiggere 30.000 manifesti con Fini che faceva il saluto romano, e autentici, c'erano sì, le fotografie, sì, c'erano le testimonianze, e lui disse che non era un saluto romano, ma era un segno ciao verso il popolo. Quindi non mi meraviglierebbe pure se andasse a Non Be Day. Vabbè, mi fermo qui ringraziandovi tutti, dal senatore Ciarrapico, l'onorevole Mario Valducci, l'onorevole Flavia Perina. Votate sul sito. Fini, secondo voi, è fuori dal Popolo della Libertà come linea politica? Al sì sono il 69% per ora, e ci fermiamo. Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea a Oscar Giannino, ci ritroviamo lunedì mattina.